Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Effettivamente la coincidenza di questo vertice con l'esplosione della questione Datagate non poteva essere più precisa. Lo ricordiamo, questo vertice di oggi si apre oggi pomeriggio a Bruxelles, proseguirà per la giornata di domani, era stato fissato per definire il cosiddetto Digital Compact, dunque il mercato europeo delle telecomunicazioni. Poi le vicende appunto drammatiche italiane dell'immigrazione e dei morti nello stretto di Sicilia ha in qualche modo dirottato il tema su quello che è l'immigrazione, la gestione comune delle frontiere. Poi lo scandalo, addirittura ieri sera appunto l'ipotesi avanzata dai quotidiani tedeschi che persino il cellulare di Angela Merkel fosse sotto controllo. Tutto questo per arrivare alla dichiarazione, avete sentito un momento fa di Barnier, ha parlato anche Viviane Reding che è vicepresidente della commissione ma anche responsabile della giustizia. Anche lei ha detto oggi pomeriggio dobbiamo affrontare questa questione, la protezione dei dati si deve applicare alle mail dei cittadini come al cellulare di Angela Merkel. Vedremo appunto che cosa emerge nel corso della giornata. E naturalmente il tema dell'immigrazione, dunque bisogna fare di più per prevenire le stragi come quella di Lampedusa, così il presidente Barroso, e questo se vogliamo è un po' il mantra di queste giornate. Intanto ieri l'Europarlamento ha trovato un accordo sulla risoluzione comune per l'immigrazione, ce lo racconta la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli. Abbiamo raggiunto una posizione comune e condivisa su alcune priorità. La prima, direi la più importante, è quella di richiamare il Consiglio europeo ad una strategia su un'equa condivisione delle responsabilità. Non possono essere soltanto alcuni paesi membri che affacciano sul bacino del Mediterraneo a avere sostanzialmente poi l'onere della gestione delle emergenze, che quindi ci vuole un sistema condiviso. Noi vorremmo che fosse obbligatorio, ma comunque condiviso delle responsabilità. Il secondo punto importante è il potenziamento di Frontex, quindi dare a Frontex più strumenti sia finanziari ma anche operativi per poter coordinare meglio il controllo delle frontiere, i pattugliamenti coordinati. Poi abbiamo risottolineato l'importanza di stabilire degli accordi con i paesi d'origine, anche per prevenire i flussi irregolari, in particolare per combattere il fenomeno del traffico degli esseri umani. Roberta Angelilli, dunque vicepresidente del Parlamento europeo, al microfono di Anna Migliorati. Frontex, lo ricordo, è l'agenzia che si occupa delle frontiere esterne e che ha sede a Varsavia. E chi invece è molto ferma, come noto, sulle posizioni che riguardano appunto immigrazione e frontiere è sicuramente Marine Le Pen, la responsabile segretario del fronte nazionale, per il quale l'Unione Europea è soprattutto, anzi solo, una anomalia politica. L'hanno intervistata per Euronet Plus Jean-Michel Boss e Laetitia Markakis. Aujourd'hui, nous sommes en train de constituer un groupe politique. Il est constitué sur des bases sérieuses. Oggi stiamo costituendo un gruppo politico fondato su serie basi. Ho detto chiaramente che non intendo avere relazioni politiche con lo Jobbik o con gruppi estremisti folcloristici neonazisti che fioriscono qua e là. Noi siamo un gruppo patriottico, il cui obiettivo è evidentemente quello di avere un peso nella futura legislatura. Sur la future mandature. C'est une anomalie dans le monde pour une raison simple. L'Unione Europea è un'anomalia nel mondo per una ragione molto semplice. Il 95% delle nazioni del mondo ha la sua moneta e la sua sovranità. Si è trattato della costruzione di un impero, e si sa peraltro che gli imperi finiscono male, il cui obiettivo è quello di risucchiare la sovranità di ogni popolo e di costruire una specie di cosa politica, non solo senza i popoli, ma contro la vita dei popoli. In Francia è stato chiaramente così. I francesi hanno votato no al referendum sulla Costituzione europea, eppure attraverso un vero e proprio abuso di potere i senatori e deputati di destra e sinistra insieme si sono messi d'accordo per imporre loro questa Costituzione. Chiederemo quindi con forza un referendum sull'Unione Europea. Evidentemente un referendum sull'Unione Europea. Dal 2014 sarà operativo il brevetto unico europeo, che con un'unica domanda sarà immediatamente valido in tutti i paesi dell'Unione, con risparmio di tempo e denaro. Ne restano fuori però Italia e Spagna, che si opposero al trilinguismo imposto per le richieste e che prevede domande in inglese, francese o tedesco. L'Italia non è mai stata discriminata sul piano linguistico, spiega però Benoît Battistelli, che è presidente dello European Patent Office, che si augura un ripensamento. Definisce anche inconsistenti le preoccupazioni sulle lingue con cui eventualmente rivolgersi al Tribunale Unificato dei Brevetti. Italy has joined the European Patent Court. La questione del Tribunale Europeo dei Brevetti, spiega Benoît Battistelli, è diversa perché l'Italia ha aderito a questo progetto. Il trattato stabilisce che esiste una Camera Centrale di Prima Istanza a Parigi, Londra e Monaco e delle Camere decentrate che possono essere create in ciascun Paese membro dell'Unione. Per cui anche l'Italia potrebbe avere una Camera decentrata che permetterebbe un facile accesso alla Corte da parte delle piccole e medie imprese. Funzionerebbe così: per quel che riguarda la prima istanza si può scegliere se condurre il procedimento a livello centralizzato o decidere di portarlo avanti in una sede decentrata che farebbe sempre parte del Tribunale dei Brevetti con giudici dei diversi paesi. Per la seconda istanza invece abbiamo la Corte d'Appello unica con sede in Lussemburgo. L'intervista è stata realizzata da Laura Bettini. Bene, con questo noi abbiamo chiuso naturalmente l'appuntamento con Europa 24 e domani poco dopo le 14. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.